Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e bentornati a Smart City. Sarà capitato a tutti di imbattersi in quelle immagini di bellezza abbagliante degli iceberg alla deriva nel mare Antartico. Spesso l'avrete notato, questi iceberg sono di un colore blu intenso anziché bianchi come magari ci aspetteremmo. Il blu è dovuto al fatto che questo ghiaccio è rimasto sepolto per lungo tempo subendo pressioni elevate che hanno espulso tutte le microbolle di aria che conteneva. Sono queste bollicine a rendere il ghiaccio bianco perché, diciamo così, sparpagliano la luce. Senza queste bollicine il ghiaccio ha lo stesso colore dell'acqua liquida, un bel blu con una punta di verde. Eppure, blu o non blu, il ghiaccio che si trova sul pianeta Terra è solo uno dei moltissimi tipi di ghiaccio possibili. Infatti, così come il carbonio, a seconda di come sono disposti gli atomi, può presentarsi, per esempio, sotto forma di grafite o di diamante, il ghiaccio può addirittura presentarsi in 16 modi diversi. O almeno così si pensava fino a qualche settimana fa, quando i ricercatori dell'ISC, l'Istituto Sistemi Complessi del CNR di Firenze, con un articolo su Nature Communication hanno annunciato di aver identificato un 17esimo tipo di ghiaccio, che ha tra l'altro alcune proprietà molto particolari. Ne parliamo con Lorenzo Ulivi, ricercatore dell'ISC CNR e naturalmente tra gli autori della ricerca. Buonasera Ulivi. Buonasera, buonasera. Allora, senta, intanto partiamo un po' da questa storia dei molti tipi di ghiaccio. Come si ottengono tutte queste varietà di ghiaccio? Sì, sì, è chiaro che il modo più semplice per far gelare l'acqua è metterla in frigorifero, freddarla, ma non è l'unico modo. Poi posso arrivare a produrre un solido dall'acqua liquida pressurizzandola anche a temperatura ambiente. Faccio un ghiaccio caldo in questo caso? Un ghiaccio caldo, e infatti la particolarità, devo arrivare a pressioni notevolmente alte, di intorno circa, se mi ricordo bene, 11.000 atmosfere, cioè 11.000 volte più la pressione che troviamo sulla nostra superficie terrestre. Però ottengo un ghiaccio caldo che tra l'altro affonda. Il ghiaccio caldo, certo, affonda, il ghiaccio freddo è una delle tante tipi di ghiaccio. Insomma, questo ghiaccio caldo naturalmente non va molto bene per i drink, ma probabilmente gli altri 15 tipi di ghiaccio andavano tutti bene. Insomma, giocando su pressione e temperatura, gli atomi, le molecole di acqua si dispongono in modi molto diversi, dando origine a ghiacci leggeri, pesanti, tutti bianchi? O sì, azzurri? Sì, tutti sostanzialmente bianchi. Bene. Tutti sostanzialmente trasparenti. Ok, d'accordo. Ecco, veniamo invece a questo ghiaccio 17. Come si ottiene, come si presenta e che proprietà ha? Sì, questa non è, diciamo, una delle strutture stabili dell'acqua da sola, non la posso fare usando acqua, solamente acqua, ma devo partire da un sistema, una miscela di acqua e idrogeno molecolare, e questa la devo pressurizzare a pressione, che sono anche più basse di 11.000 atmosfere di cui parlavamo prima, sono intorno alle 4.000 atmosfere, e la devo gelare, far solidificare, in questo caso devo affreddarla intorno una ventina di gradi sotto zero, diciamo così. 20 gradi sotto zero, ok. Sì, l'idrogeno obbliga l'acqua a organizzarsi in un certo modo e a formare dei canali, però non ho ghiaccio puro, no? Qui ho una miscela di acqua e idrogeno. Però se questo solido io lo rinfreddo a una temperatura molto bassa, intorno a 150 gradi sotto zero, io posso eliminare la pressione e posso anche eliminare l'idrogeno da dentro pompandolo via e ottengo uno scheletro di acqua che ha esattamente la stessa struttura come quando si era formato e presenta questi canali in cui dentro prima c'era l'idrogeno che poi è uscito, ma questi canali restano stabili purché io tenga freddo il mio campione. Insomma, la presenza di questo idrogeno mescolato all'acqua costringe le molecole d'acqua a organizzarsi formando questi strani canali, per cui voi quando togliete l'idrogeno vi trovate una specie di ghiaccio molto poroso, no? E qui arriviamo alle proprietà di questo ghiaccio così poroso. Sì, sì, certo, è proprio così. Questi pori rimangono nella struttura dell'acqua, questo scheletro di acqua mantiene questi pori e ci posso rinfilare dentro idrogeno e anche altri gas. Il fatto che ci possa rinfilare idrogeno ci ha fatto pensare che questo campione potrebbe essere utile per sistemi per lo storage dell'idrogeno, ma anche per applicazioni per l'auto a idrogeno o cose del genere. Magari in posti dove fa molto freddo, ecco, diciamo, perché c'è bisogno di un di un bel freschino, insomma, per poter ragione. Fare queste cose. No, sono situazioni che a volte si verificano, penso alle sonde spaziali, ma accumulo di idrogeno, ma anche qualcos'altro, vero? Altre possibili applicazioni, poi si vedrà se verranno fuori, eh? Sì, esatto, le applicazioni di cui parlo sono possibili in principio, poi bisogna vedere se tecnologicamente conviene sono fare così. Ecco, certo. Esatto, quindi oltre che per lo storage dell'idrogeno uno può pensare ad applicazioni per purificare gas all'interno di questi canali. Alcuni gas entrano con più facilità di altri e ci restano con più facilità di altri, e questo può servire alla separazione dei gas, cosa che però tecnologicamente viene fatta anche con composti che hanno simili canali, tipo le zeoliti. Va bene, grazie a Lorenzo Ulivi. Grazie a voi e salute e buonasera a tutti gli ascoltatori.